La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea puntuale come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è in una settimana che porta in sala 8 nuove pellicole, alcune anche di grande possibilità sotto il piano del botteghino. Altre di assoluto interesse per quanto concerne invece la cinefilia, ma ce n'è una dalla quale vogliamo cominciare questa nostra puntata della Rosa Purpura, che invece mette insieme chi ha amato, ama la grande musica e chi appunto invece vuole vederla riprodotta anche con tutti gli strumenti e la tecnologia del cinema moderno. E allora arrivano in sala da 15 settembre per una settimana, quindi andatelo a vedere se siete interessati, i Beatles con il nuovo film di Ron Howard. Chiedi chi erano i Beatles, si domandavano gli stadio qualche anno fa in una celebre canzone. Ebbene, il film di Ron Howard sembra essere proprio la risposta a questo interrogativo. Chiedi chi erano i Beatles, chiedilo a una ragazza di 15 anni d'età. Allora, se ci sono ragazze di 15 anni o di 18, di 20 o di 25, insomma, che non hanno vissuto dal vivo sulla loro pelle l'epopea del quartetto di Liverpool, il film di Ron Howard è assolutamente un film fondamentale. Nella sua semplicità, nella sua regia molto asciutta, molto lineare, molto rispettosa del totem, del mito che si sta affrontando, ma davvero un film documentario con materiali inediti o quantomeno rari che ti porta dentro un fenomeno e vi assicuro riscalda il cuore anche a chi i Beatles magari un refolo lo ha avvertito anche sulla sua pelle quando era giovane. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. E allora, siccome i Beatles cantavano Help, io mi faccio aiutare da Davide Verrazzani, che è in collegamento con noi. Ciao Davide. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Davide, Davide Verrazzani, cinefilo, critico, ma soprattutto autore teatrale, con un discreto successo negli ultimi anni, grazie a una pièce sui Beatles che è andata al Festival di Edimburgo, prestigiosissima, è andata a Londra, è stata ovunque. Insomma, chi meglio di Davide può raccontarci un po' il cuore di questo film? Dicevo prima, materiali rari, inediti, soprattutto sentiamo molto parlare i Beatles, li vediamo molto all'opera dentro gli studi di Abbey Road, dentro e anzi dietro le quinte del loro lavoro quotidiano, e viene fuori, Davide, il quadro di un quartetto che in quegli anni di galera, come li avrebbe chiamati Giuseppe Verdi, quei tre anni in cui i Beatles hanno girato continuamente il mondo senza fermarsi mai, quegli anni in cui è nata poi forse anche una piccola repulsione, neanche tanto piccola, verso questo modo di affrontare la musica. Ebbene, in quegli anni i Beatles erano però una compagnia di quattro mattacchioni scanzonati, veramente quattro amici. Ma sì, io direi che l'interesse maggiore del film è stato proprio qui, cioè nel fatto che vengono mostrati notevoli spezzoni totalmente inediti, anche perché è proprio la creazione del film, è stata il film messo in piedi unendo centinaia e centinaia di spezzoni di filmati amatoriali, di filmati di chi li ha visti in concerto e che magari ha tenuto i filmati per 30-40 anni sotto il letto, guardandoli ogni tanto nelle festicioie di Nassau. Ecco, per cui questo è l'interesse per il fan, ovviamente, quindi per me, che con un po' dei Beatles so tutto. Però l'interesse per invece per chi i Beatles non li conosce è vedere che questi erano fondamentalmente dei ragazzini di 22 anni, di 20 anni, che erano alle prese con un qualcosa di gigantesco che loro stessi probabilmente non si rendevano, di cui loro stessi non si rendevano conto. E vederli comunque scherzare fra di loro, ridere, ma rendersi conto sempre e comunque di essere ripresi da una telecamera. Quindi loro sanno sempre di essere in connessione non solo fra di loro, ma anche con i loro fans. Questo è veramente notevole, secondo me. E ricordiamo il titolo, 8 Days a Week, 8 giorni alla settimana, una autocitazione potremmo dire. Ron Howard, Davide, è entrato in punta di piedi in questo che è anche un suo mito, quello appunto dei Beatles. Come dicevo prima, una regia molto lineare che però costruisce, grazie a questa normalità, l'eccezionalità del fenomeno. Sì, Ron Howard è un fan, quindi chiaramente lui stesso ha sempre dichiarato, insomma, il documentario ha avuto parecchi anni di gestazione e ha sempre dichiarato che era stato addirittura spaventato all'inizio dal fatto di essere stato chiamato a girare un film sui Beatles. Poi lo spavento si è stemperato, perché Paul McCartney e Ringo Starr sono comunque due persone che avevano voglia loro stesse di mettersi in gioco, e ricordiamo che questo è l'unico, è il primo documentario autorizzato dai Beatles in 45 anni di storia, quindi non è mai stato fatto un altro documentario autorizzato da loro stessi, se non quello girato dai fratelli Miles, che infatti, di cui infatti si vedono degli spezzoni nel film, durante il loro primo intervento, durante la loro prima apparizione all'Ed Sullivan Show a New York all'inizio del 64. Ecco, quello praticamente è forse il primo e unico documentario veramente autorizzato dai Beatles, ma in quel caso i Beatles non autorizzavano molto, diciamo che c'era qualcuno che autorizzava per loro. Quindi Ron Howard si è dato da fare con un grande rispetto e grande umiltà di fronte a, insomma, a questi che sono comunque dei miti non solo della musica ma anche del costume, direi. Davide, ultima cosa, ed è proprio il dulcis in fundo, ricordiamo che insieme a questo documentario alla fine il pubblico si potrà godere gli interi 30 minuti, perché non duravano tantissimo i concerti dei Beatles all'epoca, gli interi 30 minuti del concerto allo Shea Stadium di New York, rimasterizzati in 4K, diciamo che lo sentiamo meglio noi oggi di quanto l'hanno sentito allo stadio allora. Ma sì, in realtà io da fan, io avevo già visto il concerto allo Shea Stadium, ovviamente non con quella pulizia di suono e di immagine, per cui da fan io penso che addirittura hanno quasi fatto violenza rimasterizzando tutto e rimettendo tutto a posto, perché credo che in realtà chi era allo Shea Stadium non ha mai sentito quei suoni. Davide, grazie, sì. Ricordo ancora il tuo spettacolo, tu lo porterai ancora in giro questo spettacolo sui Beatles? Ma allora, lo spettacolo andrà molto probabilmente a febbraio-marzo dell'anno prossimo in Scozia. Quindi in un tour in Scozia, quindi chi vuole prendere l'aereo andare in Scozia e viva. E poi in Italia, sai, si dice non nemo profeta in patria. Io lo spettacolo ha avuto successo a Edimburgo e in Italia speriamo. Si faccia sotto qualcuno, insomma, per farci vedere anche in Italia lo spettacolo sui Beatles di Davide Verazzani. Grazie Davide, a risentirci. Prego, grazie a voi. E allora sulle note di Help, viabilità, fra poco torniamo insieme e parliamo ancora delle nuove uscite. Muccino ci porta l'estate addosso. La rosa purpurea. Tu hai già deciso che cosa vuoi fare quando torniamo a casa? Forse. Lo sai, io vorrei restare qui per sempre. Non voglio tornare alla mia vita convenzionale di Roma. Potremmo restare qui. Voglio restare qui con tutti voi. Vorrei stare qui con me. Sì. E allora le parole di L'estate addosso, il film di Gabriele Muccino che arriva nelle sale, è arrivato nelle sale italiane dopo il passaggio a Venezia. Ne avevamo parlato, tra l'altro, forse qualcuno di voi ricorderà, proprio durante una delle puntate veneziane. Una storia d'adolescenza finita, di un passaggio nell'età adulta e di un'estate che ti rimane appunto addosso. La storia di Marco che è vicino al diploma, ma soprattutto vicino alle scelte importanti della vita, e di questa estate della maturità con un grande viaggio a San Francisco insieme a una compagna di scuola che, insomma, non è che all'inizio abbia così una clamorosa sintonia con questo ragazzo. Quando arriveranno a San Francisco incontreranno due ragazzi che vivono insieme, e con loro scopriranno se stessi, scopriranno di non essere poi così diversi, scopriranno la loro sessualità. È il classico viaggio iniziatico che Muccino ha raccontato tante volte nei suoi film, soprattutto quelli della prima fase, della fase italiana, prima ancora di poi andare a fare appunto cinema in America. E questo è un po' un film italo-americano. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Boris, ne avevamo parlato dell'estate addosso dicendo appunto che era un film con tante imperfezioni ma anche con un cuore tutto sommato, che forse è la cosa migliore che Muccino riesce a fare, quella di raccontare il sentimento. Sì, è assolutamente così. Le imperfezioni sono davvero tante e alcune sono sorprendenti, pensando insomma anche all'abilità e al talento visivo di Gabriele Muccino, che però per sua stessa ammissione nell'avventura americana ha trovato sia il suo apice con La ricerca della felicità, sia poi un declino dovuto anche alla difficoltà di scontrarsi e incontrarsi con le sabbie mobili produttive degli Stati Uniti, che non sono facilmente traducibili per chi insomma non è nativo. E, secondo me, con Padri e Figli aveva ritrovato il suo cuore, cioè aveva ritrovato quella capacità di prendere lo spettatore e metterlo di fronte anche a qualche stereotipo, ma superare, diciamo, l'intelletto e arrivare, come dicevi tu, direttamente al sentimento. Qui con L'estate addosso continua questo periodo lento di recupero di Gabriele Muccino, che non è affatto quello delle prime, dei primi film, non è neanche quello della Ricerca della felicità, cerca di essere un po' tutte e due, cioè cerca di riscoprire l'America, perché siamo in America appunto, cerca di farlo sempre da San Francisco, incredibilmente, San Francisco era il luogo che serviva al protagonista della Ricerca della felicità, Garner, per rinascere. In qualche modo a questi ragazzi che vengono da Roma Nord, che vengono da un liceo privato, sembra Chateaubriand, ma comunque qualcosa di simile, devono davvero riscoprire la vita, devono capire che cos'è la vita, che non è solo quella che stava nelle loro aule fatte di griffe firmate, di ragazzi e ragazze con qualche vizio di troppo, ma è fatto della vita vera. Il vero Muccino si vede alla fine, quando loro vanno a Cuba, quando loro, insomma, l'etica e l'estetica della fuga di Muccino, che conosciamo bene, si compie, in qualche modo si libera il regista e si vedono i barlumi di quello che era. Quindi vedremo, insomma, siamo ansiosi sempre di vedere il prossimo, di vederlo recuperato, perché è un talento straordinario. Questo film, insomma, diciamo, è rimandato a settembre, anche se è un film estivo. E quindi L'estate addosso di Gabriele Muccino nei nostri cinema, partenza abbastanza lenta, però insomma i dati sono quelli dei primi giorni, la classifica dice ovviamente Dori, non poteva che essere così, ma ne parleremo fra poco. Adesso è arrivato il momento di giocare, giocheremo molto questa settimana, abbiamo un sacco di cose da regalare, tra le quali, lo dico, anche un'intervista fra poco qui in studio con uno dei protagonisti, direi il protagonista, perché è quello più maturo, mi guarda dall'altra parte del vetro e dice di sì, quello più maturo del musical Footloose, che sta per sbarcare a Milano. E allora, andiamo con ordine. Primo gioco, il solito nostro DVD game, indovinare un film per provare a vincerlo. In questo caso il film, che è una serie televisiva, ma con dentro tanto tanto cinema, ve lo diciamo subito qual è, con questa clip. I started this company from nothing. Right, and now we're selling it. I'm talking about our dreams, man, you don't understand. Okay, here's what I do understand, Richard. E allora avete sentito la clip originale, perché la serie è in originale, è stata di Vinyl, la serie TV che è stata un po' un oggetto, non dico misterioso perché se ne è parlato tanto, però un po' maledetto, perché dopo la prima stagione praticamente i produttori hanno deciso di bloccarla, non ha avuto l'esito che si pensava, ma non è tanto un fatto artistico, ecco perché ve la stiamo proponendo, quanto un problema produttivo, forse anche un po' di costi, perché Vinyl, che esplora il mondo della discografia americana degli anni 80, ha davvero nomi importanti in cabina di regia, nel cast, nella produzione, e proprio su questi nomi verte il nostro gioco. Per vincere la stagione, volevo dire la prima stagione, ma direi anche l'unica stagione di Vinyl, le sue 10 puntate, dovrete indovinare, rispondere esattamente a due domande. Una ve la faccio adesso, una ve la faccio più tardi. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre larosapurpurea@radio24.it. e allora, numero 1, chi ha diretto l'episodio pilota di Vinyl? Rispondete a questa domanda al nostro indirizzo di posta elettronica e poi non andate via, perché fra poco vi faccio l'altra. Vinceranno i nostri amici che avranno indovinato entrambe le i nostri quiz. E allora passiamo ancora, torniamo anzi al cinema italiano, perché abbiamo parlato di Muccino, arriva in sala anche Giuseppe Piccioni con il suo nuovo film che si intitola Questi giorni. Guarda Anna, forse dovremmo parlarci seriamente invece di fare battute. Mia madre dice che non c'è mai il momento giusto per fare i figli, che i figli si fanno sempre nel momento sbagliato. Beh, a noi è successo veramente così, che siamo state fatte nel momento sbagliato, tu soprattutto. Che bello. Cosa? E che ridi. Mi piace quando ridi. No, davvero, era un po' che non ti vedevo ridere. Allora? Mi accompagni, stronzetta, eh? Anche qui una vacanza indimenticabile, anche qui quattro amiche che partono, qui sono un po' più grandi, diciamo, siamo già dentro il periodo, la grande bolla del periodo della stagione universitaria, partono per una vacanza nel vicino Est Europa, appena al di là del confine di Trieste, qui con un tono sicuramente più cupo, meno scanzonato, forse anche più realistico, e devo dire che a me la regia di Piccioni in questo film mi è piaciuta molto. E allora la nostra Chiara Pizzimenti è andata ad intervistare Giuseppe Piccioni. Non è un film generazionale, forse non è nemmeno un film di viaggio, perché è un viaggio di pochi giorni che è nella parte centrale del film, non ha caratteristiche epiche, né ci sono chissà quali giravolte di fatti, avvenimenti, quelle che io dicevo ai miei sceneggiatori: non facciamoci prendere da ossessioni sceneggiatorie, no? Allora io penso che un po' tutti i registi che io stimo e che si rispettano devono partire da questa serie di non, no? Di aggirare, di fiancheggiare il cliché, di eluderlo e di cercare qualcosa che è un qualcosa che non è una sceneggiatura premeditata, come purtroppo troppo spesso se ne fanno oggi. Io mi è piaciuto citare una poesia di Ada Negri che dice, che si chiama Mia giovinezza, però Ada Negri dice: non sei perduta, sei rimasta in fondo all'essere. E allora da parte mia c'era più il desiderio di rimettermi un po' in contatto con quello strano sentimento, quell'insieme di energie, aspettative, banalità, dispersioni, sciaguratezze, che sono un po' la sostanza di un periodo di cui non ci accorgiamo quasi nulla, però poi ti volti e ti accorgi che un periodo fondamentale della tua vita è passato. Le quattro ragazze trovate lungo la strada, trovate tutte insieme, trovate con lungo percorso? Lunghissimo percorso, perché noi malediciamo sempre il rinvio dei film, il film doveva partire molto prima, abbiamo avuto insomma sempre situazioni che bisognava aspettare perché non avevamo tutto il budget e tutte le cose. Poi invece in questo periodo io non ho fatto che continuare a fare quello che si dice casting. Ha visto tantissime giovani attrici, queste sono quattro giovani attrici che per fortuna non hanno ancora i calli del professionismo, hanno ancora una loro energia, una loro freschezza, non aprono il cassetto dei ferri del mestiere per fare una scena. Quattro giovani, una mi perdonerà, meno giovane, Margherita Bui, che è una presenza non fissa ma costante nel suo cinema. C'è sempre Margherita Bui, c'è quasi sempre. È vero, devo riuscire a liberarmi. No, io sono molto grato a Margherita, soprattutto per questo personaggio, perché lei l'ha fatto senza l'ossessione della performance, però cercando anche di accogliere questa proposta, che era la proposta di un personaggio per lei nuovo, no? Abbastanza inedito, di una parrucchiera. Ha raccontato l'arco di un cambiamento in poche scene, come se mi avesse fatto un regalo. Lei anche era molto emozionata perché ha trovato molte persone che erano entusiaste. Lei esitava perché diceva: no, il film delle ragazze, però invece ha avuto un bellissimo riscontro il suo lavoro. Giuseppe Piccioni alla Rosa Purpurea, al microfono di Chiara Pizzimenti, per questi giorni nei cinema italiani. Adesso, prima di lasciare la linea alla regia, ascoltiamo un'altra clip che ci porta dentro un altro regalo, un altro grande regalo di questa nostra puntata. Festival di Salso Maggiore, proprio all'inizio di ottobre ci saranno cena di gala e un weekend tutto all'insegna di Alberto Sordi. Allora, ascoltate questa clip e provate a capire di che film si tratta. Mi sembri un verme, Macrone. Questa roba da Nargani, vedi? Yogurt, malvata, mostarda. What the snana la mostarda? Mi fai licenziare dal giornale perché non ti basta il mio stipendio. Mi bruci il romanzo perché non hai fiducia in me. E poi mi mandi a scuola come un bambino deficiente, è vero questo, Elena? Sì, è vero, però tu ti eri convinto. No, mi avete convinto e adesso che mi hanno bocciato io sono contento. Per fornirne poi, subito dopo il sorpasso... Ma che dice quello? E che dice? Spiega, no? Più suggestive. Spiega. Nell'erigerla... Le cose che noi non potremmo capire. Che è, buona mela, re? Eh no, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, eh? E allora dovete dirci i titoli dei tre film contenuti in questa clip. Tre film, chiaramente, che dovrete indovinare, ma può anche darsi che non indoviniate tutti. Avremo un'altra possibilità fra poco. Dovete scriverceli al nostro numero di SMS 349-238-6666. I primi due ascoltatori che indovineranno la maggior parte di questi film, se non tutti, vinceranno un weekend a Salso Maggiore per due persone durante Mangia Cinema e due posti alla cena di gala, appunto inaugurale, sempre lì a Mangia Cinema. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia, adesso lì nella regia. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10:30, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24, di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. La rosa purpurea. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Sì! È esattamente così che devi dire. Sì. Bene, bene. Ora fingiamo d'essere altri pesciolini. Oh, ciao, Dori! Ehi là! Ti va di giocare a nascondino? Va bene, mi piace giocare. Noi ci nascondiamo, tu conti e vieni a cercarci. Va bene, papà. No, no, non papà. Io sono il pesciolino simpatico che vuole essere tuo amico, d'accordo? Va bene, papà. No? Mi sono nascosta! Ora conta fino a 10. 1, 2, 3, 4... Mi piace la sabbia, è sgusciosa. Mamma, vado a giocare con loro. Dori! Torna la pesciolina Dori, la pesciolina smemorata, che è stata veramente il grande crack, diciamo, di Nemo. Ricorderete Finding Nemo, qualche anno fa, successo planetario, tutti con sto pesciolino, la pinnetta atrofizzata, eccetera, eccetera. Ma veramente il personaggio da Oscar da non protagonista era Dori. Era Dori che è rimasta veramente nell'immaginario, è diventata anche un modo di dire, ho la memoria del pesciolino Dori. Ecco, questo modo di dire, questo personaggio diventa uno spin-off, diventa il sequel, se vogliamo, di Nemo, Alla ricerca di Dori, da casa Disney, nei cinema italiani. Vi assicuro che è un record del mondo, si piange dopo 3 minuti più o meno. Dopo questa scena, che è quella che avete sentito, la scena iniziale, già ci sono i fazzoletti pronti in sala, per un film che poi ci porterà appunto alla ricerca dei genitori di Dori, che in questo flashback troviamo piccolina e capiamo il momento dello smarrimento, della perdita, ma poi ci sarà, chiaramente aiutati da Nemo, da suo padre e da tutta l'allegra banda di pesci di tutte le fogge, dimensioni e colori, verso il normale e disneyano lieto fine. Boris, i sequel a volte sono, come dire, a rischio. In questo caso forse non tutto, soprattutto nella parte centrale, non tutto è perfettamente fluido, però c'è anche da dire che casa Disney ha voluto affrontare la cosa non come un vero e proprio sequel con gli stessi protagonisti, ma più un po' appunto come uno spin-off, come una sorta di costola del film che racconta un'altra storia. Bravissimo, il segreto di Alla ricerca di Dori è proprio il tentativo di fare uno spin-off puro e semplice, non voler costruire un sequel, ed è questo secondo me il segreto di un film che, pur con alcuni momenti di difficoltà nella parte centrale, come dicevi tu, secondo me è assolutamente riuscito, ed è la dimostrazione che proprio il genere della narrazione Pixar è un passo avanti a tutti, nell'animazione ma non solo, perché che cosa fanno qui quei geni della Pixar? Decidono di innestare Nemo all'interno di Inside Out, perché si gioca molto sull'aspetto anche mentale, sull'aspetto psicologico. I deliri mnemonici di Dori hanno qualcosa, tornando ai Beatles, alla Yellow Submarine, sono colorati, sono improbabili, sono psichedelici, e allo stesso tempo quasi tutti gli altri personaggi sono degli outsider come Dori, tutti hanno qualcosa che manca loro secondo il conformismo dilagante, ma che in verità è qualcosa in più. Faccio un esempio divertente: c'è un personaggio, un comprimario, che è un'ostrica, che a differenza di Dori ricorda tutto, e ricorda in particolare una capasanta di cui è rimasta innamorata per sempre, ed è una storia tenerissima, divertentissima, molto laterale, ma che comunque percorre tutto il film. La grandezza della Pixar forse è sempre stata questa, cioè la capacità di creare film pieni, film rotondi, film capaci sempre di portare avanti più piste narrative e più intuizioni e più ricerche anche semantiche ed immagini all'interno di un film. E quindi io non posso che dire che la ricerca di Dory, pur con i suoi piccoli difetti, che sono in fondo forse i piccoli difetti dei loro personaggi, riesce ad essere però il miglior film di questa settimana, perché come al solito intenerirà e conquisterà sia i più piccoli, che si divertiranno per le gag, che sono tantissime, sia i più grandi, che troveranno forse un percorso di vita che è diverso, che è strano, ma che è forse il più bello di tutti. Allora, questo era Dory, giochiamo di nuovo insieme col nostro DVD game con Vinyl, o Vinyl come direbbero quelli che se ne intendono. Avevamo parlato prima del regista che ha firmato l'episodio pilota, e allora vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it. Seconda domanda da indovinare: quale rockstar è coproduttore della serie? E allora scriveteci al nostro indirizzo, che così mettiamo insieme tutto. I primi nostri ascoltatori che indovineranno entrambe le risposte riceveranno la stagione di Vinyl con le 10 puntate, ma poi ci saranno anche premi di consolazione. Insomma, settimana prossima sveleremo davvero tutto. Boris, abbiamo 2 minuti per raccontare l'ultimo film di questa settimana di cui vogliamo occuparci. Si intitola Trafficanti. Stiamo parlando dell'accesso esclusivo a uno stock enorme di armi e munizioni provenienti dal blocco sovietico. Praticamente abbiamo la vittoria in tasca. È sulla lista nera per terrorismo. C'è gente che finisce su quella lista per essersi portata in aereo dalle forbicine. Non è questo il suo caso. Senti, il Pentagono vuole 100 milioni di munizioni per AK-47 in un momento di carenza mondiale di scorte. Secondo te da dove si aspettano che arriveranno? Da qualche losco figlio di puttana come quello. Questo è il lavoro. Fare affari con persone in posti dove il governo americano non può arrivare direttamente. Ormai dovresti saperlo. Cazzo! E allora, storia vera, tra l'altro, di 2 ventenni amici di Miami che durante la guerra dell'Iraq, la prima guerra dell'Iraq, trovarono il modo di fare molti, ma molti soldi attraverso i commerci con l'esercito americano. Storia che ha sicuramente i crismi del cinema, diciamo così, d'azione, ma che ha soprattutto 2 attori che a me piace sempre vedere al cinema. Quando ci sono li vado a vedere, che sono Jonah Hill e Bradley Cooper. Boris. Beh, da una parte Bradley Cooper è ormai un attore feticcio di Todd Phillips, perché ricordiamolo, il regista che è quello di Una notte da leoni e che è il genio assoluto della comicità demenziale dedicata alle amicizie maschili. Jonah Hill è secondo me un attore di cui ancora non abbiamo capito le potenzialità, ma è straordinario. Mi piace ricordare anche Miles Teller, che qui è un ottimo comprimario, forse anche qualcosa di più. E questo mix di questi 3 uomini rende Trafficanti un film davvero efficace, un po' perché la storia era già di per sé un film, è stata narrata da Guy Lawson su Rolling Stone, ed è una storia, ai noi, e quando lo vedrete capirete, successa veramente. Insomma, la più grande potenza del mondo libero si affidò per non poco tempo a 2 ventenni che avevano 2 caratteristiche, l'essere straordinariamente stupidi e l'essere straordinariamente avidi, ma anche avere la capacità di sognare, no? Tornando a Dory, di poter arrivare dove non sarebbero mai potuti arrivare per le loro capacità. È molto divertente, perché qual è la forza di Todd Phillips? Creare delle situazioni in cui si arrivi al parossismo, in cui un presunto realismo diventi una follia demenziale. Qui è successo veramente, perché effettivamente in zone franche come la guerra può succedere di tutto. Se qualcuno non capisce di rischiare di fare il passo più lungo della gamba, può arrivare ad avere un ruolo nella politica internazionale che non potrebbe mai immaginare. E Todd Phillips gioca continuamente su questo paradosso, cioè 2 che non potrebbero probabilmente amministrare neanche il loro condominio si ritrovano a decidere le sorti del mondo, o quasi. Chiaramente questo è tutto molto divertente, Todd Phillips sa giocarlo alla grande. Qual è il difetto dei Trafficanti? A mio parere, 1, non saper sfruttare totalmente quei 3 attori straordinari. I personaggi sembrano essere more than life e more than film, E dall'altra parte forse era necessario calcare la mano sull'aspetto più politico, più folle di un mondo che si mette in mano a due ventenni. Nonostante questo è un film di grande intrattenimento, un film efficace, un film che ti fa divertire, che ti fa rimanere sulla poltrona, e quindi va bene così. Poteva essere un piccolo gioiello, è rimasto comunque un film che si può vedere con grande gusto. E allora grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana con le segnalazioni dalle sale cinematografiche. Alla prossima settimana e buon cinema. Boris Sollazzo ci lascia, noi invece vi lasciamo con il riascolto dei tre film di Alberto Sordi per vincere la cena di gala al Grand Hotel Porro di Salso Maggiore il 29 di settembre e un weekend a Mangia Cinema qui con Radio 24. Sentiamo. Mi sembri un verme, Macrone. Questa roba da Nargani, vedi? Yogurt, marmellata, mostarda. What is an animal mostarda? Mi fai licenziare dal giornale perché non ti basta il mio stipendio. Mi bruci il romanzo perché non hai fiducia in me. E poi mi mandi a scuola come un bambino deficiente, è vero questo, Elena? Sì, è vero, però tu ti eri convinto. No, mi avete convinto e adesso che mi hanno bocciato io sono contento. Per fornirne poi, subito dopo il sorpasso. Ma che dice quello? E che dice? Spiega. Spiega. Le cose che noi non potevamo capire. Che è, vuoi una mela, re? Eh no, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, eh? La rosa purpurea. Che groove che c'è in questo brano di Footloose con me Antonello Angiolillo. Ciao Antonello. Ciao, ciao a tutti. Bello roccheggiante, eh? Bello roccheggiante anni 80. Assolutamente, quei bei bassi pieni, esatto, insomma, no? Esatto. Antonello Angiolillo che, come dicevo prima scherzando, è il protagonista, uno dei protagonisti Footloose. Scherzavi sul protagonista perché poi in realtà i giovani e forti sono Riccardo Sinisi e Beatrice Baldaccini, però sull'anziano sì, sono il più grande della compagnia e non è la prima volta è la che cosa ti capita. Cominciano farmi piacere. E tu sei nel musical che è tratto dal ricordo, dal film che nel 1984 vedeva un giovanissimo Kevin Bacon, credo agli esordi se non sbaglio. Sì, se non era proprio l'esordio, ma insomma, esatto, il film che sicuramente l'ha regalato un po' alla notorietà. Raccontare questa storia, appunto, questa storia di campagna americana, di Real America, quella proprio dentro dove ci sono i cowboy e dove il ballo non era accettato e dove questi ragazzi si ribellavano a questa idea. C'era a portare il verbo della cattiveria questo reverendo Showmore, che adesso è interpretato da Antonello Angiolillo, che è qui con noi, ma soprattutto Antonello, per raccontarci questo musical, questa edizione che ha avuto, l'abbiamo anche appreso in conferenza stampa, un grandissimo gradimento da parte del regista. Tutti continuano a fare i complimenti a questo cast giovanissimo, di grandissimo livello, e che ci fa pensare che veramente i tempi anche in Italia per un musical di livello internazionale siano maturi. Ma io credo che i tempi in Italia siano maturi già da un bel po', nel senso che la parte artistica, per quanto riguarda i performer, l'Italia non ha da invidiare a nessun paese straniero. Il gap, se mi permetti, che questa volta la stage invece ha dimostrato esattamente il contrario, ha preso persone brave senza legarsi ai nomi. Il problema è produttivo-distributivo, perché se ovviamente il pubblico richiede un nome e nessuno cede, anzi tutti cedono a questo, andiamo avanti così. Però i tempi sono più che maturi, perché gente brava in Italia ce n'è. Tanta. Ecco, attualità di questa storia. Oggi il ballo è totalmente sdoganato, forse oggi servirebbe un reverendo Showmore, sì, esatto, a dare una calmata. Però non è finita invece, come dire, quella storia. Una puntata così oggi, si parla molto di superamento dell'adolescenza, eccetera. No, anche in questo caso, no? Anche in Footloose, non è finita quella cosa, cioè i giovani che cercano un'autonomia, insomma. Sì, c'è sempre stata. Cioè, io mi ricordo mio padre diceva lo stesso di suo padre, quindi credo sia un passaggio generazionale che tutti dobbiamo attraversare. E sì, qui si parla di danza, però è simbolo di un rapporto tra adulto e giovane, tra genitore e figlio, che è assolutamente assolutamente eterno. Questa è una cosa, per esempio, su cui il regista ha puntato tantissimo e credo sia forse il valore aggiunto di questo spettacolo, perché può, parlando di danza, può facilmente cadere in uno spettacolo leggero, brillante, frivolo, Lussini e Paillette, tanto per parlare di danza e di ragazzini. In realtà lui ha fatto un bel lavoro di sottotesto e ci tiene tantissimo a che venga fuori il rapporto tra questa famiglia, questi adulti, il reverendo Shaw e sua moglie, e i ragazzi. Quindi non è la storia di due ragazzi che vogliono ballare e si innamorano, ma è il conflitto che c'è tra adulti e giovani e tra genitori e figli. E credo sia importante, perché poi uno viene a teatro, anche se non direttamente, ma anche per pensare. Alla fine esce con... ma però... Beh, certo, no, assolutamente. Tra l'altro devo dire che aiuta molto anche in questo senso le musiche di questo Footloose, di questo musical, che ho notato anche nei brani, quelli diciamo più accattivanti, sono, come abbiamo visto prima, molto, molto pompati, hanno una bella base rock che aiuta. Quelli più introspettivi, più di riflessione, hanno comunque armonie e melodie molto particolari. Mi sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro anche in chiave di adattamento. Sono, sì, assolutamente sì. Sono, ti devo dire, io non conoscevo bene il musical. Forse anche per questo pregiudizio che ti dicevo, vabbè, parla di danza, ormai sono anziano, mi dedico a cose più intellettuali. In realtà è bellissimo e non c'è un brano che non può piacere. Sono tutti belli, scritti bene, riadattati benissimo all'atmosfera. Poi tra l'altro ci tengo a dire che abbiamo un'orchestra dal vivo, che è un'altra roba, diretta da Maestro Andrea Gandrini. È un'altra roba averla, perché hai dei tempi umani. Arrivo a dire che il musical per me è solo quello con l'orchestra, sì, dal vivo. Assolutamente. Capisco, sì, che spesso poi non si possa fare, eccetera. Certo. Però laddove insomma, è non cosa. Si può fare, magari piccola, però dal vivo. Laddove non si può fare, ci sono comunque modi per rendere quasi vero e dal vivo, come fosse dal vivo la cosa. Quando invece diventa, vabbè, tanto la base va bene lo stesso. Diventa un'altra cosa, sì, decisamente. diventa karaoke. Bravo. Prima di chiudere, invitiamo il pubblico della Rosa Purpurea a vedere Footloose, perché anche qui oggi è giornata proprio Babbo Natale. 10 biglietti per l'anteprima del 22 settembre al Teatro Nazionale di Milano, e quindi 10 biglietti che i nostri ascoltatori possono ricevere semplicemente scrivendoci una mail con il loro nome e cognome, perché dobbiamo raggiungerli poi e dare una lista alla nostra amica Lia, che ci ha portato, cioè, io la prossima volta faccio il pubblico invece, sì, di, certo, andare in scena, perché avete più biglietti voi. Esatto, noi siamo una specie di biglietteria così. Okay. E allora la Rosa Purpurea, quindi il 22 al Teatro Nazionale siete invitati, solo i 10 che ovviamente sono più veloci, assolutamente, sì, qua è una questione di essere svegli. Io sono anziano, non ce la farei, voi giovani sbrigatevi. E per venire a vedere Footloose, un musical bello con un cast fantastico, l'orchestra dal vivo, il rientro della Stage Entertainment nel panorama teatrale italiano, e credo che sbancherà quest'inverno qua a Milano. E allora, certo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, ovviamente si tratta di 5 coppie di biglietti, perché la gente la mandiamo da sola, o magari sì, anche sì, che solo se non si sa fanno mai amicizie bellissime. Scriveteci e poi sarete ricontattati quelli che appunto avranno la possibilità di intervenire all'anteprima del 22. Poi dal 24 ce n'è per tutti, Footloose rimane al Nazionale per un sacco di tempo. Sì, starà quindi fino al 31 dicembre, con repliche da mercoledì a domenica e doppia la domenica, quindi avete non tutto il tempo, perché si tende a ritardare, poi a dicembre tutti vogliono venire, ma insomma ci si può godere l'inverno milanese a teatro. Assolutamente, grazie allora Antonello Angiolillo, e insomma grazie in bocca al lupo. In bocca al lupo, dice. Così adesso dice. Si dice viva, pare che sì, sia, esatto, cambiato. Viva il lupo, viva, sì, il perché lupo. Sì, c'è tutta una leggenda, tutta ma lo spiegheremo in un'altra puntata. Un'altra puntata, ci vediamo adesso dopo. Adesso invece noi ci occupiamo del cinema da vedere in casa, perché abbiamo semplicemente da chiudere la trasmissione ricordandovi qual era il nostro film, il nostro game della scorsa settimana. Tranquillo ragazzo, non ti spaventare, ok? Dove mi trovo? Questa è una caverna, la mia caverna. Settimana Disney, perché settimana scorsa abbiamo giocato con Il Libro della Giungla, l'ultima edizione uscita al cinema, quella appunto in live action, ma con molto, molto, molta ricostruzione in computer graphic animation. I più bravi sono stati Luca Rocca di Nocera Terinese, provincia di Catanzaro, e Natale Ciappina di Palmi, provincia di Reggio Calabria, insomma due ascoltatori calabresi che riceveranno il Blu-ray di Il Libro della Giungla, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Cosa ci vuole per crescere un uomo? Una famiglia che insegni il senso di appartenenza, un maestro che insegni l'etica, un amico che insegni a ridere e nemici che temprino lo spirito. È uno schema decisamente ancestrale, ma raramente ha trovato una forma così essenziale come nel libro della giungla di Rudyard Kipling, che ora la Disney rinverdisce in live action a quasi 50 anni dal classico animato. L'adattamento è spettacolare, con il respiro giusto dell'epica e con una messa in scena che presta particolare cura alla stereoscopia, con uno dei 3D davvero meglio concepiti di questi anni. Il Blu-ray preserva la resa del film, i contenuti extra sono tanti e notevoli e si va dalla storia di come il regista e il supervisore degli effetti speciali hanno pensato e fondato il film, fino al focus sulla costruzione di particolari sequenze. E allora, grazie Giulio. Questa settimana non ci sono gli spazi per i consigli TV, ma torneranno la prossima settimana. Siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea. Grazie per averci seguito. Giocate con noi, vi abbiamo detto in quanti modi potete farlo e ci risentiamo la prossima settimana.